Lois e Faith sedevano vicine, intenti a filare. Stavano in silenzio pensando alle storie che si raccontavano. Fu Lois la prima a parlare. Oh, Faith, questo paese è peggiore di quanto sia mai stata l'Inghilterra, anche ai tempi di Mastro Matthew Hopkinson, il cacciatore di streghe. Sto cominciando ad aver paura di tutti, credo. Certe volte mi spaventa persino Natty. Faith arrossì lievemente, poi chiese: Perché? Perché dovresti diffidare di quella vecchia indiana? Oh, mi vergogno della mia paura appena la sento, ma sai, il suo aspetto, il colore della pelle mi sono sembrati strani al mio arrivo. E poi non è battezzata e raccontano tutte queste storie sugli stregoni indiani. E non so cosa siano le misture che rimescola sul fuoco e neanche cosa significhino le strane nenie che canta tra sé. E una volta l'ho incontrata all'imbrunire proprio vicino alla casa del pastore Tappau, insieme a Hota, la sua serva. È stato appena prima di sentire di quella grande agitazione in casa sua e mi sono chiesta se non avesse per caso a che fare con quella faccenda. Faith sedeva immobile, come se stesse pensando. Infine disse: Se Natty ha dei poteri superiori ai miei o ai tuoi, non li userà per fare del male, o perlomeno non farà del male a quelli che ama. Questo mi consola poco, disse Lois. Se ha poteri superiori al lecito, ho paura di lei. Anche se non le ho mai fatto del male, e anche se potrei quasi dire che con me si è dimostrata benevola, ma poteri del genere vengono dati solo dal maligno, e la prova è che, come implicitamente ammetti, ne farebbe uso contro chi la offende. E perché non dovrebbe? Chiese Faith, alzando gli occhi lampeggianti d'ira. Perché? Disse Lois, a cui era sfuggito lo sguardo di Faith. Ci è stato insegnato a pregare per chi ci disprezza e a far del bene a chi ci perseguita. Ma la povera Natty non è stata battezzata. Vorrei che il signor Nolan la battezzasse. Forse così potrebbe sottrarla al potere delle tentazioni di Satana. E tu? Non sei mai stata tentata, tu? Le chiese Faith con un certo disprezzo. Eppure non ho dubbi che ti abbiano battezzata per bene. È vero, disse Lois con tristezza. Spesso agisco molto male, ma forse potrei agire ancora peggio se la forma sacra non fosse stata rispettata. Per un po' rimasero in silenzio. Lois, disse Faith, non volevo offenderti, ma non senti mai la voglia di rinunciare a tutta quella vita futura di cui parlano i preti e che sembra talmente vaga e lontana, in cambio di qualche anno di beatitudine vera, intensa, domani? Tra un'ora? Adesso? Oh, io sì. Riesco a concepire una felicità per la quale rinuncerei volentieri a tutte quelle incerte possibilità di gioia celeste. Faith! Faith! Gridò Lois in preda al terrore, mettendole la mano sulla bocca e guardandosi intorno impaurita. Zitta! Non sai chi potrebbe essere in ascolto! Ti stai mettendo in suo potere! Ma Faith allontanò la sua mano e disse: Lois, non credo in lui più di quanto non creda nel cielo. Può darsi che esistano entrambi, ma sono così lontani che li sfido. Per esempio, tutta questa confusione intorno alla casa del pastore Tappau. Se mi prometti di non parlarne ad anima viva, ti dico un segreto. No, disse Lois terrorizzata. Ho paura dei segreti, non voglio sentire niente. Farò per te tutto quello che posso e come posso, cugina Faith, ma di questi tempi mi sforzo di limitare rigidamente la mia vita e i miei pensieri a una devozione sincera e ho paura di votarmi a qualcosa di sconosciuto e segreto. Come vuoi, ragazza codarda, atterrita da paure che potresti aver alleviato, anche se non eliminato del tutto se mi avessi dato retta. E Faith si rifiutò di dire anche solo un'altra parola, per quanto Lois tentasse di attirarla dolcemente su altri argomenti di conversazione. Le voci sulla stregoneria erano come l'eco del tuono tra le colline. Era scoppiato in casa del signor Tappau e le prime ad essere considerate stregate furono le sue figliolette, ma da ogni luogo, da ogni parte della città, giungevano resoconti su persone sottoposte ai tormenti della stregoneria. Non v'era quasi famiglia priva di una presunta vittima. Poi ci fu un rombo e minacce di vendetta risuonarono in molte case, minacce intensificate, non attutite, dal terrore e dal mistero della sofferenza che le provocava. Infine, fu fissato un giorno in cui, dopo il digiuno e la preghiera solenne, il signor Tappau invitò i ministri degli insediamenti vicini e tutta la gente devota ad adunarsi in casa sua e a unirsi a lui nel consacrare una giornata a funzioni religiose solenni e alla supplica per la liberazione dal potere del maligno delle sue bambine e di quanti subivano gli stessi tormenti. Tutta Salem si riversò per strada, diretta alla casa del ministro. L'eccitazione era dipinta su tutti i visi, su molti era evidente uno sguardo bramoso e carico d'orrore, su altri decisione risoluta, disposta a divenire determinazione crudele, qualora se ne fosse presentata l'occasione. Durante la preghiera, Esther Tapau, la bambina più piccola, fu presa dalle convulsioni. Gli attacchi si succedevano l'uno all'altro e le urla si confondevano con gli strilli e le grida dell'intera congregazione. Non appena intervenne una pausa, durante la quale la bambina si riprese parzialmente e la gente intorno era spossata e ansimante, suo padre, il pastore Tappau, alzò la mano destra e la scongiurò nel nome della Trinità di dire chi la tormentava. Ci fu un silenzio mortale. Non una sola di quelle centinaia di persone si mosse. Faticosamente, priva di forze, Esther si girò e gemendo mormorò il nome di Hota, la serva indiana di suo padre. Hota era presente, apparentemente interessata come tutti gli altri, e in verità si era molto prodigata per alleviare le sofferenze della bambina. Ma in quel momento rimase paralizzata dal terrore, mentre il suo nome era afferrato dalla folla, riunita e urlato da voci cariche di riprovazione e di odio. Ancora un attimo. E si sarebbero gettati sulla creatura tremante, l'avrebbero fatta a pezzi. Hota, terrea, terrorizzata, che proprio il suo smarrimento faceva sembrare colpevole. Ma il pastore Tappau, quell'uomo magro e grigio, raddrizzandosi quanto più poté, fece loro segno di farsi indietro, di tacere e di ascoltarlo. E allora disse che la vendetta immediata non era pena, né ponderata né giusta. Che era necessario un verdetto di colpevolezza, forse una confessione, che sperava di trovare nelle sue rivelazioni, se fosse stata indotta a confessare, un rimedio alle sofferenze delle sue bambine. Dovevano affidare la colpevole a lui e ai ministri di culto suoi confratelli perché potessero lottare con Satana prima di consegnarla al potere dello Stato. Parlò in modo convincente, poiché le sue erano parole che sgorgavano dal cuore di un padre che vedeva le sue bambine esposte a una sofferenza orrenda e misteriosa, e che credeva fermamente di avere in mano la chiave per liberare al fine loro e quanti soffrivano come loro. E la congregazione, mormorando insoddisfatta, si sottomise e lo ascoltò pregare fervidamente e a lungo, mentre la povera Hota era ancora lì, legata e sorvegliata da due uomini che la fissavano con occhi torvi, come segugi, a catena, pronti a sciogliersi, anche quando la preghiera terminò con le parole misericordiose del Salvatore. A quella scena Lois provò nausea e terrore. Non era la sua ragione a rabbrividire per la follia e la superstizione della gente, ma la sua sensibilità morale. Di fronte a una colpa di cui era convinta e a manifestazioni di avversione e di odio, che per quanto rivolte a chi di quella colpa si era macchiato, turbavano e angustiavano il suo cuore pietoso. Pallida, con gli occhi bassi, seguì sua zia e le cugine all'aria aperta. Grace Hickson camminava verso casa con un senso di soddisfazione e sollievo per la scoperta della colpevole. Solo Faith sembrava insolitamente sconcertata e a disagio, visto che per Manasseh l'intera faccenda non rappresentava che l'adempiersi di una profezia, e in Prudence la scena inconsueta aveva risvegliato uno stato di intensa eccitazione in cui si avvicendavano umori contrastanti. «Ho quasi la stessa età di Hester Tappau», disse. «Lei compie gli anni in settembre e io in ottobre». «E questo cosa c'entra?» chiese Faith aspramente. Niente, solo che sembrava impossibile vedere tutti quei ministri così seri raccolti in preghiera per una cosa da niente come lei. E tanta gente venuta da lontano, perfino da Boston, hanno detto. Praticamente tutto apposta per lei. Non hai visto che era il pio signor Henwick a tenerle la testa mentre smaniava e che la vecchia signora Holbrook si è fatta aiutare a salire su una seggiola per vedere meglio? Chissà quanto dovrei smaniare io perché la gente importante e pia si accorgesse di me. Comunque credo che sia perché è figlia del pastore. E adesso si darà certe arie, non si potrà neanche rivolgerle la parola. Faith, ma tu ci credi che Ota l'ha stregata per davvero? L'ultima volta che sono stata dal pastore Tappau mi ha dato dei biscotti d'avena proprio come tutte le altre donne. Forse era solo un po' più gentile. E pensare che dopo tutto è una strega. Ma Faith sembrava aver fretta di tornare a casa e non prestava attenzione alle parole di Prudence. Lois procedeva velocemente accanto a Faith, poiché Manasseh camminava a fianco di sua madre e lei si atteneva fermamente al proposito di evitarlo, anche se, così facendo, imponeva la sua compagnia a Faith, che negli ultimi tempi si era mostrata ansiosa di evitarla. Quella sera, a Salem, si sparse la voce che Hota aveva confessato la sua colpa. Aveva ammesso di essere una strega. Matti fu la prima a sentire la notizia. Si precipitò nella stanza dove le ragazze sedevano sole, senza Grace Hickson, solennemente inattive a causa della grandiosa riunione di preghiera della mattina, e gridò: «Pietà, pietà, padrona, tutti proteggere! Povera indiana, Natti, mi fai fare male, solo per padrona e famiglia! Otta maligna, strega cattiva, lei stessa dire così, ahimè, ahimè!» E piegandosi su Faith disse qualcosa in un tono di voce basso e sconvolto, di cui Lois sentì solo la parola tortura. Ma Faith sentì tutto e, fattasi molto pallida, per metà accompagnò, per metà riportò Natti in cucina. Subito dopo entrò Grace Hickson. Era stata da una vicina. Non sarebbe adeguato dire che una donna così devota era stata spettegolare. In verità, l'argomento della sua conversazione era di natura troppo seria e importante per permettermi di definirlo con una parola superficiale. Nonostante si fossero presentate le componenti del pettegolezzo, l'ascolto, cioè, e la ripetizione dettagliata di particolari e dicerie che non riguardano i parlanti, in quel caso, tuttavia, possiamo riconoscere ai fatti e ai discorsi più banali un significato così tremendo e la possibilità di un esito così spaventoso che occasionalmente quelle voci venivano a rivestire un'importanza tragica. Si afferrava avidamente ogni frammento di notizie concernenti casa Tappau, che il cane del pastore aveva ululato per un'intera notte senza che riuscissero a calmarlo, che la sua mucca aveva improvvisamente perso il latte solo 2 mesi dopo aver figliato, che una mattina la memoria lo aveva tradito per 1 o 2 minuti mentre diceva il Pater Nostro, di cui nel suo turbamento aveva omesso un punto, e che ora tutte quelle anticipazioni dello strano male delle sue bambine si potevano interpretare e capire. Era stato questo l'argomento della conversazione di Grace Hickson con le sue amiche. Verso la fine era sorta una discussione per decidere fino a che punto l'assoggettamento ai poteri del maligno si potesse considerare una punizione divina per una qualche colpa del pastore Tappau, e se era così, per quale colpa? Non era una discussione spiacevole, anche se le opinioni divergevano considerevolmente. Infatti, visto che le famiglie delle donne presenti non erano state colpite, si tendeva ad assumere questo fatto a prova della loro purezza. Mentre parlavano, ne entrò una dalla strada, recando la notizia che Hota aveva confessato tutto. Aveva ammesso di aver scritto il suo nome su un certo libricino rosso che Satana le aveva porto, di aver partecipato a pratiche empie, di aver cavalcato attraverso l'aria fino alle cascate di Newbury. In realtà aveva assentito a tutte le domande postele da consiglieri e magistrati, i quali, per non omettere neanche un solo quesito, avevano attentamente riletto le confessioni di streghe precedentemente processate in Inghilterra. Aveva fatto anche ulteriori ammissioni, ma si riferivano a cose di minore importanza, di natura pertinente ad artifici terreni più che a facoltà spirituali. Aveva parlato di spaghi disposti con cura, per mezzo dei quali si poteva smuovere o far cadere le terraglie in casa del pastore Tappau. Ma le comari di Salem prestarono poca attenzione a queste pratiche illecite e intellegibili. Una disse che un atto simile rivelava l'istigazione di Satana, ma tutte preferivano sentir parlare della colpa più solenne riguardante i riti sacrileghi e le cavalcate soprannaturali. La narratrice concluse dicendo che, nonostante la confessione, sebbene le fosse stata promessa salva la vita, se avesse riconosciuto il suo peccato, Hota sarebbe stata impiccata la mattina seguente, poiché conveniva che la prima strega scoperta fosse d'esempio, ed era un bene che fosse un'indiana, una pagana, la cui vita non sarebbe stata una grande perdita per la comunità. Su questo punto Grace Hickson intervenne. Era un bene che le streghe sparissero dalla faccia della terra, indiane o inglesi che fossero, pagane o peggio cristiane battezzate che avevano tradito il Signore, proprio come Giuda ed erano passate dalla parte di Satana. Lei, però, avrebbe preferito che la prima strega scoperta appartenesse a una pia famiglia inglese, perché tutti vedessero che i devoti erano disposti a tagliarsi la mano destra e a cavarsi l'occhio destro, qualora fossero contaminati dal peccato infernale. Fu dura e convincente. L'ultima arrivata disse che forse le sue parole sarebbero state messe alla prova, poiché si sussurrava che Hota avesse fatto altri nomi, anche di membri delle più pie famiglie di Salem, e diceva di aver visto tra gli empi alla comunione del maligno. E Grace rispose che si rendeva garante del fatto che tutti i devoti avrebbero superato la prova, preferendo soffocare ogni affetto naturale, piuttosto che vedere un tale peccato crescere e diffondersi tra loro. Riconosceva la propria debolezza nella paura fisica di assistere alla morte violenta, fosse pure di un animale. Ma non sarebbe stato questo a impedirle di stare tra quelli che l'indomani mattina avrebbero cacciato via da sé la creatura maledetta. Contrariamente alle sue abitudini, Grace Hickson riferì alla famiglia gran parte di quella conversazione. Il fatto che parlasse era un segno della sua eccitazione sull'argomento e l'eccitazione si sparse nella famiglia, assumendo forme diverse. Faith era accaldata e irrequieta, in continuo movimento tra la sala e la cucina, particolarmente interessata a sentire dalla madre le parti più singolari della confessione di Hota, come per volersi convincere che la strega indiana avesse realmente compiuto quegli atti orribili e misteriosi. Il racconto e l'idea che tutto questo fosse possibile facevano rabbrividire e tremare Lois. Di tanto in tanto sentiva i suoi pensieri vagare verso un senso di pietà per la donna condannata a morte, aborrita dagli uomini e senza il perdono di Dio, da lei così spaventosamente tradito, e che in quello stesso momento, mentre Lois sedeva tra i suoi al caldo, nella ridente luce del fuoco, nell'attesa di molti giorni sereni, forse felici, era sola, tremante, terrorizzata, colpevole, senza nessuno che le stesse accanto e le dicesse parole di ammonimento, rinchiusa al buio tra i freddi muri della prigione cittadina. Ma Lois quasi provava orrore nel compatire una così ripugnante complice di Satana e chiedeva perdono per quei pensieri così caritatevoli, ma poi le tornava in mente lo spirito misericordioso del Salvatore e allora si abbandonava alla pietà, sinché alla fine il suo senso del giusto e dell'ingiusto le si confuse talmente che non poté che rimettere tutto alla volontà di Dio e chiedergli soltanto che prendesse nelle sue mani tutte le creature e tutti gli eventi. Prudence era allegra, come se stesse ascoltando una storia lieta, curiosa di sapere più di quanto sua madre fosse disposta a dirle, senza dimostrarsi particolarmente spaventata da streghe e stregonerie, ma estremamente desiderosa di accompagnare la madre all'impiccagione dell'indomani. Lois si sentì turbata dal viso crudele e bramoso della ragazzina che supplicava sua madre di darle il permesso. Persino Grace rimase confusa e perplessa di fronte all'ostinazione di sua figlia. «No!» disse. «Non chiedermelo più! Non ci andrai! Spettacoli simili non sono adatti ai giovani. Io ci vado e il pensiero mi fa star male, ma ci vado per dimostrare di essere una donna cristiana che prende le parti di Dio contro il demonio. Tu non ci andrai, puoi star sicura. Avrei voglia di frustarti per averci pensato». Manasseh dice che Hota è stata frustata per bene dal pastore Tappau prima di decidersi a confessare, disse Prudence, che sembrava ansiosa di cambiare argomento. Manasseh sollevò la testa dallo studio del grande infoglio della Bibbia che suo padre aveva portato dall'Inghilterra. Non aveva sentito le parole di Prudence, ma alzò lo sguardo alla menzione del suo nome E le donne trasalirono alla vista di quegli occhi selvaggi, di quel viso esangue, ma lui fu palesemente infastidito dall'espressione delle loro facce. «Perché mi guardate a quel modo?» chiese con fare ansioso e agitato. Sua madre si affrettò a rispondere. «È solo che Prudence ci ha riferito qualcosa che tu le hai detto, che il pastore Tappau si è macchiato le mani, frustando la strega Hota. Che pensiero maligno si è impossessato di te? Parla con noi, non romperti la testa sulla sapienza degli uomini. Non è la sapienza degli uomini che studio, ma la parola di Dio. Vorrei saperne di più sulla natura del peccato di stregoneria e se sia davvero il peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo. A volte sento che si insinua in me un'istigazione a pensieri malvagi e atti indicibili, allora mi chiedo, non è questo il potere della stregoneria? E mi sento male e mi ripugna tutto ciò che faccio o dico, eppure una qualche creatura maligna mi domina e sono costretto a dire, a fare ciò che mi ripugna e mi spaventa. Perché ti stupisci, madre? Proprio io e non altri mi sforzi di conoscere l'esatta natura della stregoneria e perciò studi la parola di Dio? Non mi hai visto quando sembravo posseduto da un demone? Parlò con tristezza, ma anche con convinzione profonda. Sua madre si alzò per andarlo a confortare. Figlio mio, disse, nessuno t'ha mai visto compiere atti o sentito dire parole che si potessero supporre istigate da demoni. Ti abbiamo visto, povero ragazzo, con la mente smarrita per qualche tempo, ma i tuoi pensieri cercavano la volontà di Dio in luoghi proibiti e neppure per un attimo hai perso il senno nella bramosia dei poteri delle tenebre. Ma quei giorni sono passati da tanto tempo, il futuro è davanti a te. Lascia stare le streghe, non pensare di essere succube del potere della stregoneria. Ho fatto male a parlarne in tua presenza. Lascia che Lois sieda accanto a te e ti parli. Lois andò dal cugino, profondamente addolorata per la depressione del suo stato mentale, ansiosa di rasserenarlo e confortarlo, ma ritraendosi più che mai inorridita dall'idea di poter divenire sua moglie. Un'idea verso cui la zia sembrava inconsciamente più disponibile di giorno in giorno, poiché percepiva il potere della ragazza inglese di rasserenare e confortare suo cugino, anche soltanto con l'amorevole tenerezza della voce. Manassè prese la mano di Lois. «Lascia che la tenga, mi fa bene», disse. «Ah, Lois, quando sono con te dimentico tutte le mie ansie. Verrà mai il giorno in cui ascolterai la voce che mi parla di continuo?» «Non la sento mai, cugino Manassè», rispose con dolcezza. «Ma non pensare alle voci. Parlami della parte di foresta che vuoi recintare. Che alberi ci sono?» Così, con domande chiare su problemi pratici, lo riportò con inconsapevole saggezza su argomenti in cui aveva sempre dimostrato un forte senso pratico. Ne parlò, con la dovuta moderazione, sinché per la famiglia giunse il tempo della preghiera, che in quei giorni era di buon'ora. Manassè aveva il compito di formularla in quanto capofamiglia. Una posizione questa che sua madre era stata ansiosa di assegnargli dopo la morte del marito. Era solito pregare improvvisando. Quella notte la sua supplica si perse tra frammenti selvaggi e sconnessi di preghiere e le donne, inginocchiate intorno, cominciarono a pensare nelle diverse forme che l'ansietà per il parlante assumeva in ognuna che non sarebbe mai giunta alla fine. I minuti passavano, divenivano quarti d'ora e le sue parole, sempre più enfatiche e selvagge, dicevano una preghiera per sé soltanto e mettevano a nudo gli angoli bui del suo cuore. Infine la madre si alzò, prese Lois per mano, poiché aveva fiducia nel suo ascendente sul figlio, così simile a quello del pastore David quando suonava l'arpa su Re Saul assiso in trono. L'attirò da lui verso il punto dove stava in ginocchio, con la faccia rivolta al cerchio che loro formavano, gli occhi alzati al cielo, e sul viso perduto nell'angoscia era dipinta l'intima lotta della sua anima tormentata. «Lois è qui», disse Grace, quasi dolcemente, «vuole andare in camera sua». Lacrime scorrevano sul viso della ragazza. «Alzati e va a finire di pregare nella tua stanza». Ma all'avvicinarsi di Lois, egli scattò in piedi, balzò di lato. Portala via, madre. Non mi indurre in tentazione. Mi suscita pensieri impuri e peccaminosi. Mi copre d'ombra anche in presenza del mio Dio. Non è un angelo della luce, altrimenti non farebbe questo. Mi tormenta col suono di una voce che mi dice di sposarla anche quando sono raccolto in preghiera. Via, portala via. Avrebbe colpito Lois se non si fosse tirata indietro, spaventata e sgomenta. Sua madre, per quanto sgomenta anche lei, non era spaventata. L'aveva visto altre volte in quelle condizioni e sapeva come trattare il suo parossismo. Vattene, Lois. Vederti lo irrita come un tempo accadeva con Faith. Lascialo a me. E Lois si precipitò nella sua stanza e si gettò sul letto come una creatura braccata e ansimante. Faith la seguì, lenta e cupa. Lois, disse, mi fai un favore? Non è una gran cosa. Ti puoi alzare prima dell'alba e portare una lettera all'abitazione del pastore Nolan? L'avrei fatto io stessa, ma mia madre vuole che stia con lei e potrei essere trattenuta fino all'ora dell'impiccagione di Hota. E la lettera parla di cose che riguardano la vita e la morte. Cerca il pastore Nolan a qualunque costo e aspetta la sua risposta dopo che ha letto la lettera. Non la può portare Natti? Chiese Lois. No, rispose Faith rabbiosamente. Perché dovrebbe? Ma Lois non rispose. Un sospetto improvviso attraversò come un lampo la mente di Faith. Mai prima di allora vi era penetrato. Parla, Lois. Ti leggo nel pensiero. Faresti volentieri a meno di portare la mia lettera? La porterò, disse Lois docilmente. Dici che riguarda la vita e la morte? Sì, disse Faith con una voce molto diversa. Ma dopo una pausa di riflessione aggiunse: Allora, appena tutti dormono, scriverò ciò che ho da dire e la lascerò qui, su questo baule, e mi devi promettere che la prenderai prima che sia giorno fatto, quando ci sarà ancora tempo di agire. Sì, lo prometto, disse Lois, e Faith la conosceva abbastanza da sapere con certezza che per quanto riluttante potesse essere, avrebbe compiuto quanto richiestole. La lettera fu scritta, posata sul baule, e prima che il giorno nascesse, Lois era in piedi, sotto lo sguardo degli occhi socchiusi di Faith, occhi che per l'intera notte non si erano mai abbandonati al sonno. Non appena Lois, avvolta nel mantello e coperta dal cappuccio, fu uscita dalla stanza, Faith balzò fuori dal letto e si preparò ad andare da sua madre, che sentiva già alzata. Quasi tutti a Salem erano svegli e in piedi, in quella mattina tremenda, anche se pochi erano per strada quando Lois passò. Raggiunse la forca innalzata in fretta, la cui ombra nera cadeva obliquamente sulla via, carica di un significato tremendo. Dovette poi passare davanti alle sbarre di ferro della prigione, dalle cui finestre senza vetri sentì giungere il grido pauroso di una donna e il rumore di molti passi. Sul punto di svenire per il malessere, si affrettò per la sua strada verso la casa della vedova dove alloggiava il signor Nolan.